Nuova stagione, Ert Teatro Emilia Romagna, ma siamo ancora in estate, anche se la stiamo prendendo negli ultimi giorni, però possiamo fare un compendio generale di questa strana estate insieme al presidente di Ert Emilia Romagna Teatri. Ci dica un po' com'è andata questa strana estate e come procede. Noi siamo molto soddisfatti, c'è stato un impegno molto forte per realizzare attività estive in tutte le nostre città che abitiamo, con uno eccellente riscontro anche di partecipazione e di interesse da parte del pubblico. Naturalmente i numeri erano e sono stati condizionati dalle misure di sicurezza che obbligatoriamente e giustamente abbiamo rispettato scrupolosamente. Però è emersa un grande bisogno, credo, di comunità e di relazione tra le persone e anche una gran voglia di teatro, per fortuna. Tant'è che abbiamo anche prolungato, diciamo così, questa strana estate, e il mese di settembre sarà ricco di avvenimenti e di eventi. Abbiamo anche colto l'occasione per recuperare all'interno, diciamo, della programmazione di settembre alcuni eventi e nostre attività e produzioni che purtroppo durante il lockdown avevamo dovuto sospendere. In primo luogo una nuova produzione, Romeo e Giulia, di Teodoro Bonci del Bene, che aveva già fatto per noi la direzione di uno spettacolo di Tiago Rodriguez 2 anni fa, Gioie e dolori nella vita delle giraffe, uno spettacolo molto, molto fresco, molto anche però forte, insomma ricco di spunti di riflessione, e in questo caso utilizzando appunto due figure tra i personaggi più noti e famosi, in particolare del mondo shakespeariano, cioè Romeo e Giulietta, però in una reinterpretazione. Anche qui sono due giovani che entrano in conflitto con le rispettive famiglie, avrebbero un quadro di riferimenti e di valori molto differente, poi però restano anche loro condizionati dal peso di questa relazione di conflitto generazionale, che è un tema di assoluta attualità. Ma poi lo spettacolo va visto, anche perché lo spettacolo ha delle novità anche dal punto di vista dell'organizzazione scenica. Insieme con gli attori c'è un protagonista che è uno schermo ed è un meccanismo per cui lo spettatore vede in contemporanea quel che succede sul palcoscenico e contemporaneamente quello che si percepisce attraverso le riprese. Insomma, penso e spero, certo, che sia una bella occasione di curiosità e di interesse. Da ultimo facciamo anche, però, per chiudere questa coda della rassegna estiva prima di avviare la stagione autunnale, una ripresa di uno spettacolo di Nanni Garella, Personaggi in cerca di autore, che anche qui avevamo dovuto interrompere nel corso della chiusura e del lockdown. Non voglio anticipare nulla, non vogliamo anticipare nulla, ma ci sarà una linea anche per la prossima stagione che magari può essere collegata a questi contenuti? Io penso di sì. Adesso la prossima stagione la presenteremo a metà mese, però ecco, c'è un manifesto che secondo me vorrebbe evocare la necessità di un rimettere a posto delle cose, ecco, insomma, e penso che alcuni temi saranno proposti anche come occasione, come deve essere sempre il teatro, di stimolo, di approfondimento e di presa di coscienza di quello che è il momento difficile che stiamo attraversando. Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, in effetti io stesso resto attratto da queste immagini che troviamo nei punti di maggior passaggio della città e non solo. Bello, complimenti a chi ha avuto l'idea, a chi l'ha realizzata. Sembra una copertina di un libro, ma si parla di teatro. Guardi, io sono molto contento di quello che mi dice, perché l'intenzione era questa, cioè di mandare un messaggio che dicesse innanzitutto che il teatro c'è ancora e ci sarà, e secondariamente che in qualche modo incuriosisse e stimolasse un'attenzione in attesa di avere poi la possibilità di presentare e di illustrare il senso della nostra proposta di programmazione per l'autunno e il prossimo anno. Bene, Presidente, buona fine estate e buon inizio stagione. Grazie. Grazie a voi.